sopra la gotica, uomini in nero regalano sudditi o morte. Chiedono aiuto con i fucili, non lasciano libertà. Neve soldato, perfido amico, bacia la nebbia compagna. Là sopra i monti, in mezzo ai boschi, nasce un'armata essenziale. Partigiani, partigiani, partigiani, partigiani. Questa la libertà, uomini in nero confusi nel rosso sprofondano nell'antenora. No mio compagno, non darti per vinto, toglier la vita a chi ha sempre ammazzato a coscienza pulita, non è un delitto, perché noi siamo partigiani.